Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, il viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non so se ne parleremo in questa puntata, però vi avverto che sono in corso esperimenti su come i cani si scuotono l'acqua di dosso quando fanno il bagno. Pare non sia molto efficiente, possiamo insegnar loro qualche miglioramento. Benvenuti, benvenute a Medius, i titoli e poi iniziamo. Dipendenza da patatine fritte. Può sembrare strano, ma ha a che vedere con gli spinelli e i cannabinoidi. Zafferano al posto del papavero da oppio. Si è concluso il progetto dell'esercito italiano in Afghanistan per risolvere uno dei problemi più gravi del paese. La domanda impossibile della settimana arriva da Massimo. Come mai i gas che compongono l'aria si mescolano tra loro e non si dispongono in funzione dei loro pesi specifici? Lo sappiamo che ci sono ancora tante specie da scoprire, insetti, animali marini, ma nuovi mammiferi è proprio raro, soprattutto se si scoprono in un museo. È andato in pensione lo Shuttle. Proviamo a fare un bilancio delle sue più che trentennali imprese. Federico, questa volta te lo faccio io il quiz. I cannabinoidi creano dipendenza? Sì. Le patatine fritte creano dipendenza? Sì, di un altro tipo, ma sì. Allora, per la proprietà transitiva possiamo in qualche modo dire che i cannabinoidi stimolati dalle patatine fritte creano dipendenza. E questo ora, io non lo sapevo. Ecco, ma adesso, infatti, arriviamo al punto che c'è stata una ricerca italiana che ci svela un po' questo segreto, insomma, questa percezione che noi abbiamo delle patatine fritte, che una tira l'altra, insomma. Si può dire così, è stato spiegato un po' questo meccanismo una tira l'altra. Allora, a spiegarcelo sarà il professor Daniele Piomelli. Intanto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Del Dipartimento Drug Discovery and Development dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che appunto ha fatto una ricerca su questo rapporto degli endocannabinoidi, per essere precisi, con i cibi grassi, quindi le patatine fritte e tutte quelle cose che ci piacciono tanto. Ci dica un po', com'è che funziona questa roba? Beh, diciamo subito che il rapporto complesso che abbiamo con i cibi grassi va indietro tanto nel tempo, perché il grasso è una cosa estremamente importante per il nostro corpo. Assolutamente senza grasso non si vive. Allora, se loro pensano che quando ancora eravamo cacciatori-raccoglitori il grasso mica lo trovavamo dal McDonald's, si doveva andare a trovare, e quando si trovava era importante prenderne, assumerne la maggior parte, la maggior quantità possibile. Oggi le cose sono un po' diverse, nel senso che ne abbiamo a disposizione tanto. E non dobbiamo ammazzare dei mammut. Ma poi quando sono finiti i mammut è il problema. Comunque, abbiamo una serie di meccanismi biologici che ci fanno piacere il grasso, ci fanno piacere gli zuccheri. Questo che abbiamo scoperto noi è un meccanismo nuovo, abbastanza interessante, perlomeno per noi, perché coinvolge queste sostanze che si chiamano gli endocannabinoidi, che sono delle molecole che producono tutti gli animali, anche gli uomini, che vanno a attivare lo stesso recettore, cioè la stessa proteina che sta sulla superficie delle cellule, che riconosce il principio attivo della marijuana, si chiama cannabis in latino. Quindi questo principio attivo si chiama tetraidrocannabinolo, il recettore si chiama recettore cannabinoide, e le sostanze nostre, endogene, che produciamo, che lo vanno a attivare, si chiamano endocannabinoidi. Queste sono sostanze importantissime, non dobbiamo sbagliarci su questo, non sono delle sostanze che producono in qualche maniera dipendenza, sono dei trasmettitori, quindi sono importanti per regolare, per esempio, nel cervello l'umore o l'ansia, la risposta allo stress. E ovviamente sono poi, come posso dire, il tetraidrocannabinolo nella cannabis va a sfruttare l'esistenza di queste molecole, va a attivare il recettore in maniera surrettizia, ecco, quindi è un po' un hijacker, no? Hijacker, come si dice in italiano. Rapimento, lei intende dire. Ecco, sì, lo rapisce il sistema. E in effetti quello che abbiamo scoperto è che queste sostanze endocannabinoidi vengono quando si mangia grassi, quando l'animale, questi sono lavori che sono stati fatti tutti nell'animale, nel ratto, mangia grassi senza ingerirlo, questo è un animale quindi esposto a un cibo a alto contenuto di grassi, ma non può ingerirlo completamente, lo può solo gustare, quando questo avviene e si producono queste sostanze endocannabinoidi a livello dell'intestino in quantità abbastanza importanti. Quindi vanno a attivare il recettore cannabinoide a livello dell'intestino e abbiamo potuto dimostrare, utilizzando tutta una serie di tecniche sperimentali, che quando il recettore cannabinoide nell'intestino viene attivato, questo facilita, dà una spinta all'assunzione di grassi. Quindi quello che si chiama un meccanismo di retroazione positiva: si mangia grasso, il cannabinoide viene prodotto, si tende a voler mangiare più grasso. Quindi c'è un circolo vizioso che, ripeto, da un punto di vista evolutivo ha un gran senso. Ecco, sì, appunto, avete spiegato un po' il meccanismo, una tira l'altro, però fin qui diciamo non ci sarebbe nulla di male, se non poi ovviamente l'eccesso di quantità, cioè ovviamente mangiare tanto di questo grasso, che in questo momento per noi sarebbe anche superfluo, perché patatine fritte, olive ascolane e quant'altro, diciamo che non è meglio che sono fondamentali. Diciamo che l'evoluzione non aveva potuto prevedere l'invenzione del frigorifero né del Burger King, insomma, quindi questo è un problema. Ed è anche per questo che è molto importante in questo momento capire veramente come funzionano questi meccanismi. È anche importante andare a capire se per caso questi meccanismi potessero essere in qualche maniera alterati in patologie come l'obesità. Ecco, questo non lo sappiamo ancora, intendo chiarirlo subito, però è una ipotesi di lavoro che va sicuramente seguita. Sappiamo che nell'obesità il sistema endocannabinoide in tutto il corpo è piuttosto potenziato, c'è un potenziamento, ci sono livelli, sono più alti, il recettore è più attivato, quindi è possibile effettivamente che nei pazienti obesi che tendono a mangiare troppo grasso, questo sistema, essendo iperattivato, contribuisca alla iperfagia, cioè all'eccesso di presa alimentare, particolarmente rivolto verso le sostanze ad alto contenuto di grassi e di zuccheri. Non so, Piomelli, se questa vostra ricerca condurrà ad una liberalizzazione della marijuana o ad una proibizione delle patatine, che sarebbe molto più grave. Beh, io spero che non conduca nessuno di tutte e due, però sa com'è, quello che poi fanno gli uomini politici sulla base di quello che noi scienziati facciamo sa loro, non a noi, purtroppo. Sì, va bene, grazie Piomelli, e insomma ci faccia sapere se ci sono novità dal punto di vista della cura dell'obesità e del sovrappeso. Grazie. Beh, non mancherò, grazie, arrivederci. Arrivederci Piomelli. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Occhio, mano al cellulare, perché sta arrivando il quiz. Al nostro astronauta Paolo Nespoli, quando qualche mese fa è andato sulla stazione spaziale con la navicella russa Soyuz, è accaduto un fatto singolare. Quale? Il fatto è avvenuto a metà volo, quando si è ritrovato con una piccola formichina che gli girava sul naso. Ci scriverete formica. Seconda possibilità, hanno dovuto intervenire sul suo sedile cercando di abbassarlo perché lui era troppo alto, e ci scriverete alto. Ha starnutito e questo gesto gli ha fatto perdere gli occhiali, che ha potuto recuperare solo quando è arrivato alla stazione, e ci scriverete starnuto. Attenzione, che la risposta a questo quiz arriverà più avanti nella puntata, quando parleremo appunto di shuttle e di imprese spaziali. Come si partecipa al gioco? Come sempre con un sms al 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Nati per credere, perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin, scritto da Vittorio Girotto, Telmo Pievani, Giorgio Vallortigara, Edizioni Codice. Questo libro viene offerto grazie alla collaborazione con libreria Rizzoli.it. Beh, una delle caratteristiche di Mebius è la capacità di passare da argomenti in cui anche ci divertiamo molto a raccontare le cose, perché sono di per sé divertenti, ad altri che sono serissimi, e questo, Chiara, è certamente uno dei più seri che abbiamo mai affrontato. Parliamo di agricoltura, ma un'agricoltura molto importante e che ha proprio uno sfondo anche a livello sociale molto e molto politico. Intenso e politico, sì. Ti do qualche numero per capire di che cosa stiamo parlando. È un grosso progetto che ha portato avanti l'esercito italiano. Allora, si parla di 60 tonnellate di bulbi di zafferano distribuiti in Afghanistan, poi parleremo in quale regione, a 300 agricoltori afghani, tra cui anche alcune donne, per rimpiazzare le coltivazioni di papavero da oppio. Certo. E quindi in qualche modo trovare una soluzione, se vogliamo chiamarla così, ad una delle piaghe della regione afghana, appunto, dove il traffico di droga, che è una parte essenziale dell'economia. Sì, e qui appunto si vuole trovare una sorta di soluzione, di proprio sostituzione. E ecco, è che entra in gioco un progetto portato avanti appunto dall'esercito, che è durato 3 anni e che ora si deve interrompere, poi vedremo le motivazioni, ed è stato portato avanti dal PRT. Il PRT è il Provincial Reconstruction Team, cioè una squadra che ricostruisce in queste regioni, composto da alcuni membri del primo reggimento artiglieria da montagna di Fossano, in provincia di Cuneo, che si è insediato ad Herat, che è appunto la provincia afghana, sotto la responsabilità, italiana. Sì. Ecco. Qui con noi questa sera abbiamo 2 tenenti appartenenti a questo team. Abbiamo il tenente colonnello Franco De Luca. Buonasera, colonnello. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Ecco, lei è vice comandante di questo PRT, di questo team, ed è responsabile dell'area sud della provincia. E poi abbiamo invece il tenente Silvia Guberti. Buonasera, Guberti. Buonasera. Ecco, lei è responsabile invece del team del female engagement, cioè del team che si è occupato appunto del rapporto con le donne. Bene, partiamo col capire che importanza ha questo progetto, come è nato, come è venuto in mente all'esercito di utilizzare lo zafferano, quindi un prodotto agricolo molto peculiare, in sostituzione all'oppio. Colonnello De Luca. Allora, intanto tutti i progetti che sono stati svolti dal PRT sono stati svolti su esplicita richiesta delle autorità locali, quindi già partendo dal discorso provincia di Herat, quindi a livello autorità provinciali, loro hanno chiesto a noi come PRT di fornire lo zafferano proprio perché ha delle caratteristiche particolari. Vengo e mi spiego. Sì. Innanzitutto è una pianta che dal punto di vista ambientale si coltiva senza problemi in Afghanistan. Seconda cosa, poi ha un valore aggiunto, che è quello di consentire di impiegare per tutta la produzione 250 persone, comprese anche le donne. Quindi si inserisce molto bene in quella situazione. Si inserisce molto bene in quella situazione, esatto. Il discorso forse principale è che questa pianta qua, oltretutto, si sostituisce molto bene all'oppio. Perché? Perché comunque sono compatibili a livello di terreno, di crescita. A livello ambientale, quindi di strutture di terreno, di necessità di acqua, hanno le stesse esigenze tutte e due. Però il vantaggio qual è? Che con lo zafferano un ettaro equivale a un guadagno per chi lo coltiva di circa 11.000-12.000 euro l'anno. L'oppio a livello ettaro siamo sui 4.000 euro. E quindi qua si gira tutta la storia, proprio sta su questo. La storia sta su questo, la storia è anche è un discorso molto interessante, perché lo zafferano oltretutto ha una grossa capacità riproduttiva, cioè in 5 anni il numero dei bulbi piantati nel terreno aumenta considerevolmente. E quindi passiamo per esempio dalle 60 tonnellate che abbiamo distribuito noi a 82 tonnellate come totali. C'è un incremento di quasi 22 tonnellate di bulbi, che danno la possibilità ai contadini o di incrementare la propria produzione o di venderli, oppure entrambe le cose. Quindi possono parte vendere e parte incrementare la propria produzione, incrementando anche i guadagni. Ecco, voi come esercito che cosa avete fornito oltre ai bulbi? Immagino anche abbiate dovuto fare un po' di formazione. Allora, noi come PRT abbiamo fornito i bulbi più i concimi appositi per lo zafferano. Ovviamente con un occhio di riguardo alla composizione, per evitare che potessero essere concimi che si prestassero anche alla fabbricazione di esplosivi improvvisati. Sì, che con e i concimi può sembrare strano, ma con i concimi c'è questa possibile contaminazione. Esatto, c'è la possibilità di confezionare esplosivi partendo dal concime. E con alcune organizzazioni internazionali abbiamo studiato la possibilità, sono stati svolti dei corsi nei singoli distretti della provincia di Herat per insegnare agli agricoltori come coltivare lo zafferano. Veniamo al tenente Silvia Guberti. Lei si è, diciamo, occupata di far interagire in qualche modo, di far partecipare a questo grosso progetto non solo agricoltori uomini, ma anche donne, appoggiandosi appunto a delle associazioni locali. Questo è stato molto importante e ha dato anche molto rilievo al vostro progetto. Sì, certo, abbiamo tentato comunque di dare una mano, di sviluppare anche l'imprenditoria al femminile. Comunque la voglia anche di imprenditoria è presente nelle donne afghane che tengono molto comunque ad un inserimento nel mondo del lavoro. Comunque con questo progetto abbiamo aiutato la Gorians Women Saffron Association, mm-hmm. La prima associazione completamente femminile del distretto di Gorian, che conta più di 400 donne che lavorano lo zafferano in tutte le fasi e che quindi possono in questo modo rendersi autonome. I prodotti di questo zafferano sono arrivati anche in Italia, li avete portati anche qua? Esatto, li abbiamo acquistato grazie a una donazione più di un chilo di zafferano e poi l'abbiamo presentato al Salone del Gusto di Torino, dove ha riscosso molto successo, dove è stato dato in libera vendita, insomma, e i ricavati sono già ritornati nelle casse della Gorian Women Saffron Association per permettergli comunque di comprare quei macchinari che possono essere utili al loro scopo, un incremento della produzione. Ma in generale, Guberti, questo zafferano poi viene immesso in un mercato di zona, di area? Sì, viene importato verso l'India soprattutto e viene consumato in Afghanistan. Ci sono tuttavia ancora delle difficoltà per l'importazione verso altri paesi, ad esempio europei, che pure nel corso della manifestazione del Salone del Gusto hanno comunque dimostrato un forte interesse per il prodotto. Ecco, ora vorrei capire con De Luca in conclusione a che punto siamo. Cioè, abbiamo detto in apertura che il progetto si è concluso, l'esercito a questo punto che ruolo ha e che cosa stanno facendo gli agricoltori lì? Allora, per quanto riguarda il PRT e quindi se vogliamo l'esercito, il compito adesso è quello di monitorare la situazione e verificare che effettivamente lo zafferano venga coltivato secondo le procedure previste, cioè tutti i progetti comunque del PRT in qualche modo vengono seguiti e continuano ad essere seguiti. Non credo ci sarà più la possibilità di sviluppare questo progetto, perché il progetto si è svolto in 3 anni proprio perché si è tenuto in conto anche la possibilità che eventualmente prolungandolo si potesse saturare il mercato. Saturare il mercato? Esatto. Ecco. E quindi far crollare il prezzo dello zafferano rendendolo di nuovo, mettendolo di nuovo in competizione con l'oppio. Cioè, se ne produce troppo e non c'è abbastanza domanda. Esatto. Ecco. Però mi sembra che il progetto sia stato costruito in maniera tale che comunque i contadini poi possano riprendere da soli in qualche modo a coltivare in modo autonomo. Cioè, gli avete dato tutti gli strumenti anche dal punto di vista di formazione. Esatto. Quello è stato fatto sia per quanto riguarda appunto la distribuzione nuda e cruda, sia per quanto riguarda la formazione. E comunque i coltivatori in teoria possono anche essere in grado a questo punto e con l'esperienza che hanno di insegnare a loro volta qualcun altro a coltivare lo zafferano. Va bene, allora noi vi auguriamo davvero un buonissimo lavoro. Grazie al tenente colonnello Franco De Luca. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. E al tenente Silvia Guberti, buonasera. Grazie, buonasera. Buonasera e complimenti per questa idea semplice ma geniale. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Noi, Chiara, le definiamo in generale domande impossibili. Certo, quando ci chiedono se la carta argentata in frigo perché si fora, quella era proprio impossibile. Però altre non è che sono impossibili, ma vanno ad analizzare dei fenomeni che abbiamo intorno, che magari sono anche banali, però invece non sono però così, perché un di sacco cui dobbiamo di gente sapere non sa. E il la meccanismo. Domanda di oggi è proprio una di queste. Sì, ci arriva da Massimo, che ci ha scritto un'email a moebius@radio24.it. chiunque volesse mandarcele può farlo tramite appunto l'email oppure tramite il profilo di Facebook, che è Moebius Scienza. Sentiamo Massimo. Volevo sapere, siccome l'aria è composta da 3 gas, che sono l'argon, l'azoto e l'ossigeno, i quali hanno pesi specifici diversi, come mai il più pesante non si deposita in basso e il più leggero non va in alto, cioè non si stratifica e invece rimangono un gas unico? Ecco, tutto qua. Chi risponde, Chiara, a questa domanda? Allora, abbiamo chiamato un docente di chimica dell'Università di Trento, qui con noi Claudio Della Volpe. Buonasera. Buonasera. Che cosa rispondiamo a Massimo? Io direi prima di tutto che la domanda è una bella domanda e diciamo inquadrerei un po' così, diciamo noi viviamo in fondo a un pozzo di gravità, a un pozzo gravitazionale dove si combattono fondamentalmente due forze, la forza di gravità che tende a organizzare i fluidi in base alla loro densità, i più densi in fondo, i meno densi nella parte più alta, e quello che i chimici chiamano il potenziale chimico, cioè la tendenza a sfuggire, a mescolarsi fra le sostanze, legata fondamentalmente a differenze di concentrazione e agli urti molecolari. In alcuni casi una di queste forze vince, in altri casi vince l'altra, in casi intermedi si hanno situazioni intermedie. Per esempio nel caso dei liquidi, acqua e olio facciamo, tutti l'abbiamo sperimentato, l'olio galleggia sull'acqua stabilmente, non ci sono problemi, c'è una differenza di densità di circa 100 grammi per litro, sono sostanze abbastanza viscose, quindi si muovono con una certa difficoltà e ciascuna di esse ha delle forze di coesione significative. Quindi ci sono stati ben delineati con zone di separazione molto molto sottili. Se io per esempio con lo stesso salto di densità, 100 grammi per litro di differenza di peso, stratifico acqua salata sotto e acqua sopra, uno degli alleati della gravità, e cioè le forze di coesione interne fra olio e acqua, viene meno e quindi la soluzione, sia pure nel tempo, si mescola abbastanza si bene. Mescolano. Mi sembra che sia un esempio diciamo causante. Che cosa succede nel caso dei gas? Caso dei gas, tutti e tre gli alleati, diciamo, che contrastano il potenziale chimico, si indeboliscono. La differenza di densità nei gas non supera i 20 grammi per litro, cioè la differenza di densità fra l'idrogeno, che è diciamo il gas, uno dei gas più leggeri che possiamo concepire, e l'esafluoruro di uranio, che usiamo per preparare i combustibili nucleari, non supera i 20 grammi per litro. La viscosità è bassissima, quindi il mescolamento è facile, le forze di coesione interne si indeboliscono perché le molecole di gas sono molto lontane. Quindi in definitiva tutti gli alleati della stratificazione diventano più deboli e quindi la stratificazione diventa più difficile. Ciò nonostante, anche diciamo quelle piccole differenze di densità che sussistono fra azoto, ossigeno, argon o CO2 potrebbero portare a delle stratificazioni, ma in presenza di condizioni al contorno, tipo temperatura bassa, pressione bassa, che fanno indebolire le fluttuazioni e quindi l'effetto del potenziale chimico. Viceversa, per esempio, l'incremento della gravità, supponiamo naturale, non so, un grande pianeta gassoso o artificiale, le forze centrifughe possono rafforzare la stratificazione. Faccio un esempio tecnologico: non si possono mettere le macchine GPL nei garage sotterranei proprio perché la stratificazione del GPL è ancora più favorita di quella da CO2. Oppure, se in un laboratorio usate idrogeno, le vie di fuga dell'idrogeno devono stare al culmo del laboratorio, perché l'idrogeno sfuggirà sempre verso l'alto. Insomma, se volessimo separare permanentemente i gas come ossigeno e azoto, dovremmo prendere un recipiente, isolarlo acusticamente, termicamente dall'esterno, dargli una temperatura costante, evitare qualunque gradiente, abbassare temperatura e pressione e aspettare tanto tempo. In queste condizioni perfino ossigeno e azoto si possono stratificare. Chiarissimo. Grazie della Volpe, è stato assolutamente esauriente. Niente, grazie a voi. Buona serata. Dove si possono cercare nuove specie animali mai viste prima? In un museo. Strano? Beh, ascoltate Barbara Gallavotti. Sul pianeta ci sono centinaia di migliaia, forse addirittura milioni di specie sconosciute. In genere in realtà sono animali minuscoli, soprattutto insetti, invertebrati. È rarissimo trovare un mammifero ancora sconosciuto. Ebbene, ci sono riusciti due ricercatori italiani, Spartaco Gippoliti e Giovanni Amori. La cosa curiosa è che la scoperta non è avvenuta in un deserto, in una foresta amazzonica, in un luogo selvaggio, è avvenuto nelle sale del Museo Civico di Zoologia di Roma. Il nuovo animaletto è, a quanto pare, originario della Somalia ed è stato chiamato Fucomis Ilarie in onore della giornalista Ilaria Alpi, uccisa proprio in Somalia. Ci racconta la storia di questa scoperta Giovanni Amori, dell'Istituto di Studi sugli Ecosistemi del CNR. Buonasera. Buonasera. La vostra è una storia curiosa e parte da una pelle molto rovinata che apparteneva a un piccolo roditore e che è stata trovata al Museo Civico di Zoologia di Roma. Ci racconta com'è andata? Come molti altri musei di storia naturale italiani, il Museo Civico di Zoologia di Roma ha ricevuto molti animali intorno alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in epoca praticamente coloniale, e questi esemplari provenivano o da spedizioni ma anche da raccolte effettuate da alcuni soldati appassionati di natura, di zoologia, come nel caso per esempio del capitano Ugo Casale, che è stato di stanza in Somalia e che ha inviato molti esemplari di vertebrati e invertebrati provenienti proprio dai dintorni di Mogadiscio. Ecco, questo animaletto prima di arrivare nelle vostre mani ha avuto una storia alquanto avventurosa, vero? Sì. Infatti questo materiale che è arrivato molti anni fa ha subito praticamente vari passaggi di mano a causa del succedersi dei vari conservatori e per alcuni esemplari si è persa l'etichetta originale. Questo è un fatto abbastanza grave perché all'interno di questa etichetta di solito ci sono riportate delle informazioni fondamentali quali l'esatta località di provenienza dell'animale, la data di raccolta, il raccoglitore ed altri informazioni. Nel nostro caso ci è arrivata una targhetta con solo il nome, Talpa striata somala, e questo ci ha indotto a pensare che questo esemplare provenga dalla Somalia. Tra l'altro la Somalia, ma più in generale il Corno d'Africa, è nota come un'area importante per la biodiversità in quanto ospita molte specie endemiche, cioè che vivono solo lì. La pelle è effettivamente davvero rovinata. Voi certo non avete potuto fare nessuno studio genetico, però quello che avete potuto vedere da questi resti è bastato per farvi dire che si tratta di una specie nuova, mai classificata prima. Sì, infatti, al momento non siamo ancora riusciti a estrarre il DNA per fare queste analisi genetiche, ma molto probabilmente lo potremmo fare nei prossimi anni, dal momento che c'è un notevole e continuo progresso nelle tecniche di biologia molecolare. Quindi ci siamo basati solo su quello che avevamo a disposizione, e cioè la pelliccia. Infatti questa pelliccia mostra un pattern di colore abbastanza singolare, mai rinvenuto in altri esemplari di altre specie appartenenti alla famiglia Batiergidae. Questa è la famiglia alla quale appartiene anche la nostra specie. Questo pattern praticamente consiste in delle strie di peli bianchi che si dilungano lungo il dorso. Su un fondo, diciamo, caramello, qualcosa di questo tipo. Il fondo è marroncino chiaro, sì. Ecco, questa specie è sconosciuta ma ha un parente famoso, almeno è famoso fra i ricercatori, e si chiama Eterocefalo glabro. È stato descritto un po' come il mammifero che vive come una formica. Ci racconta che cosa fa l'eterocefalo? Sì. Infatti questo è l'unico mammifero, questa specie, questo eterocefalo glabro, è l'unico mammifero che mostra in effetti una struttura sociale paragonabile a quella delle formiche o delle api, cioè di quegli insetti cosiddetti eusociali. Praticamente vive in colonie abbastanza numerose, fino a 200-300 individui, e solo una femmina è in grado di riprodursi, mentre gli altri individui sono divisi in caste. Ci sono degli individui cosiddetti operai che scavano e procacciano il cibo e individui cosiddetti soldati che si occupano della difesa del proprio harem, della propria colonia, proprio come succede negli insetti sociali. Invece il vostro Fucomis hilarie di certo glabro non è, visto che l'unica cosa che è arrivata fino a noi è proprio la pelliccia. Certo. Quindi dobbiamo dedurre che ha uno stile di vita diverso dal cugino eterocefalo? Questo è un po' difficile dirlo. Esistono tuttavia informazioni sulla struttura sociale di un'altra specie parente dell'eterocefalo glabro che danno delle indicazioni simili per il tipo di vita che conducono. Per quanto riguarda il nostro esemplare, visto che ha questo pattern colorato della pelliccia, ci lascia pensare che è poco utile a un animale che conduce vita sotterranea. Inoltre la conformazione delle unghie dell'esemplare conservato al Museo Civico di Zoologia ci fanno pensare che sia un animatore siscavatore, ma non come i suoi cugini, che presentano invece delle unghie molto sottili a paletta che servono per compattare la terra durante gli scavi, mentre l'esemplare conservato, la nuova specie descritta, ha delle unghie ricurve. Voi pensate che possa magari vivere fra le rocce, una cosa di questo, questo tipo? Questo è molto probabile, che possa vivere in mezzo alle rocce, dove effettivamente può effettuare anche degli scavi, dei piccoli scavi, come fanno tutti i roditori d'altra parte. Purtroppo la situazione politica della Somalia non è tale da consentire di andare a fare ricerche di zoologia in questo momento, quindi il mistero di Fucomis hilarie rimarrà ancora per un po', speriamo non per molto, aperto, e naturalmente ci auguriamo che al più presto si possa tornare a fare ricerca scientifica anche in Somalia. Sarebbe un bel modo per ricordare Ilaria Alpi. Sì, questo anch'io mi auguro che al più presto la situazione in Somalia possa migliorare e quindi che si chiarisse definitivamente questa triste vicenda legata ai Ilaria Alpi e anche allo status della nostra specie. Grazie Giovanni Amori, buonasera. Buonasera a lei, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Giovanni Bignami, uno dei maggiori esperti di programmi spaziali, non solo in Italia ma anche a livello internazionale, è stato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, qualche settimana fa ha tracciato un bilancio, lo ha fatto in un meeting dedicato agli ultimi lanci dello shuttle, un bilancio dei 30 anni di attività della navicella americana, ma anche dei programmi spaziali in genere, del loro futuro, anche quello che riguarda il nostro paese in questo campo. Ascoltatelo, è un discorso anche pieno di aneddoti interessanti e abbastanza divertenti in qualche caso. Ti ricordo che il primo è partito giusto il 12 aprile 1981, non a caso 20 anni esatti dopo il primo volo di Yuri Gagarin che abbiamo festeggiato poco tempo fa, il 12 aprile 1961. In mezzo c'era stato di tutto, c'era stata per esempio la Luna e poi c'è stato il declino verticale del programma spaziale degli Stati Uniti perché saliva verticalmente l'impegno nel Vietnam e perché Nixon non ne fregava niente dello spazio, eccetera. Morale, non so se vi ricordate, lo ripeto, dal 1975, fine del prolungamento del progetto Apollo finisce tecnicamente nel 72, il prolungamento è arrivato nel 75, dal 75 all'81, per 6 anni, nessun americano è andato nello spazio, nessun astronauta americano è andato nello spazio. E allora i russi erano violentemente nemici, quindi non c'è questione di andare su un'astronave russa come succede adesso. Dopodiché Nixon decide che si fa convincere da quelli della NASA che dice no, facciamo questo programma, perché l'idea era che faceva un volo alla settimana, costava niente, un volo alla settimana andava su come prendere l'autobus. Beh, in realtà in 30 anni, adesso sappiamo, ha fatto 130 voli, una media di poco tra 4 e 5 all'anno, ben diverso, un fattore 10 meno frequente di quello che era previsto. Sto parlandovi adesso delle ombre del programma Shuttle, poi vi dico le luci. Però sono dei numeri che non si possono dimenticare. Oltretutto su 135, facendo tutti i dovuti scongiuri, 2 sono finiti male con 14 eroi che sono morti diciamo, per il progresso, se vogliamo usare un'espressione semplicistica. Beh, non è un gran risultato, se ci pensate un attimo. Adesso, al momento, l'esercito, le forze armate degli Stati Uniti non accettano il 2% di perdite in un teatro di guerra. 2% è considerato inaccettabile. Le luci cosa sono state? Beh, con 135 voli abbiamo fatto la mitica stazione spaziale. Allora, parliamo di cifre, costata 100 billion sulla stazione spaziale, 100 miliardi di dollari, valeva la pena? Non lo so, certamente non dal punto di vista scientifico, il rapporto costi-benefici dal punto di vista scientifico certamente non giustifica una cifra del genere, però intanto abbiamo imparato a farla, che non è per niente banale, e poi abbiamo imparato a farla insieme, perché ricordatevi una delle conseguenze che forse pochi di voi sanno, è che la stazione spaziale, quella pensata dai falchi di Reagan, era per distruggere l'Evil Empire, ed era totalmente americana, ed era inclinata di 28 gradi sull'equatore, cioè aveva l'inclinazione della latitudine di Cape Kennedy, di Cape Canaveral. Dopodiché gli americani sono accorti che non riuscivano a farla da sola, di colpo cade il muro di Berlino, i russi sono diventati amici, e ho detto, oh, i russi nello spazio ci sanno dare, mettiamoci d'accordo, sì, va bene, però bisogna partire da Baikonur, latitudine 51 gradi, conseguenza della caduta del muro che da 28 siamo passati a 51 gradi. Non banale questa cosa, quindi abbiamo imparato a costruirla e a costruirla insieme, prima di tutto americani e russi, però poi anche l'Europa recentemente ci ha messo del suo, forse non abbastanza, Maria, io mi ero battuto disperatamente per avere una presenza maggiore, ma insomma, diciamo, ci ha messo del suo e poi sono arrivati i giapponesi, ma anche tanti altri, sono decine le nazioni che in qualche modo partecipano. Ho ospitato 500 astronauti, presso poco, in questi 30 anni, sono tanti, sono pochi, non lo so, in ogni caso il programma Shuttle deve finire, i contratti di manutenzione sono già chiusi, non c'è questione di farlo continuare. E allora con la stazione spaziale come si fa? Abbiamo appena finito di costruirla, è lì che gira e la gente ci va su. La stazione spaziale è come un aeroplano, non è un satellite, ha bisogno di avere sempre a bordo dei piloti e di avere continuamente del carburante portato su, perché sennò cade, più o meno come un aeroplano. A questo punto l'unico modo di andare alla stazione spaziale con degli uomini, con degli esseri umani, è la vecchia Soyuz russa, che è un oggetto più o meno anni 70, gloriosissimo, per amor di Dio, fa 2000 voli, figata pazzesca, però una scomodità terrificante. I russi l'avevano progettata per due, adesso ce ne mettono tre dentro, in testa e piedi, così, devono stare dentro due giorni questi qua, che il povero Nespoli che è andato su con la Soyuz, che è un ragazzone, 1,83 m, i russi hanno detto no, noi l'abbiamo solo fino a 1,80 m, allora dopo un po' io ho partecipato, vabbè, hanno tolto l'imbottitura al sedile, Nespoli è andato su col sedere sul ferro, che non è che sia gradevolissimo, perché sbatacchia mica male il volo della cosa, e rientro ancora peggio. Il nostro amico Vittori, che adesso va su, l'ultima volta che è ritornato alla Soyuz, è uscito con un bozzo in testa, perché al momento dell'atterraggio non atterra in mare, atterra sul duro suolo ex sovietico, e fa un buco quanto a terra, e quelli che sono dentro prendono uno stremizzi mica male. Vabbè. Allora, d'ora in poi sarà solo quello, fino a quando non si sa, questa è la cosa che io non capisco, come non si riesca a reagire, e dico sempre svegliati Europa. Perché l'Europa non diventa capace di fare un suo accesso indipendente. L'Europa ha inventato lo ATV, l'Automatic Transfer Vehicle, al quale hanno collaborato tutte le industrie, bellissimo, un oggetto che è avvitato in cima a un Ariane 5, è capace di andare alla stazione con 8 tonnellate di carico, porta su acqua, panini, bottiglia di vodka, eccetera, e porta a casa il rusco essenzialmente. Sarebbe facilissimo in fondo trasformarlo in un oggetto che trasporta degli esseri umani e qualificare l'Ariane per farlo. Non so perché l'Europa non voglia farlo, sarebbe un salto di qualità importantissimo e permetterebbe a noi di essere molto più protagonisti. L'Italia, secondo me, non si rende conto che sarà difficile poi che ci vadano degli altri italiani per molto tempo. Mi dispiace che è una cosa poco popolare, ma adesso bisogna andare dai russi col cappello in mano per andare su sulla Soyuz, e devono andarci anche gli americani. I russi hanno distrattamente aumentato il costo, quando io presidente dell'ASI costava 20 milioni un posto sulla Soyuz, adesso costa 63. Distrattamente i russi sono rimasti gli unici che possono andare su e fanno il prezzo che vogliono. Io ho difficoltà a immaginare che gli americani diano un posto agli italiani o ai francesi o agli europei in generale, non lo so, perché c'è anche i giapponesi, cioè c'è diversi clienti per questi pochissimi posti, ammesso che la Soyuz continui ad andare, per amor di Dio, perché insomma, anche quello non è eterno. Quindi, parlando dell'Italia in particolare, finalmente il CIPE, presieduto dall'onorevole Cosentino, lo aggiungo sempre perché è importante ricordarlo, ha approvato il programma nazionale della ricerca. Secondo me i soldi però sono troppo pochi, mi dispiace dirlo, secondo me sono troppo pochi. Qui parliamo di piccolezze rispetto a certi altri aspetti del budget dell'Italia. Noi abbiamo buttato via 1 miliardo per un non ponte di Messina, va bene, con una cifra con la quale si raddoppiava sostanzialmente l'attività spaziale in Italia. Per fare soltanto un esempio, lo so che è difficile, per amor di Dio, ho provato a essere nella posizione in cui la gente, dove dire alla gente volete burro o cannoni, però bisogna avere un minimo di idea su cosa fare. E allora devo dire, qui bisogna trovare un altro modo di fare il finanziamento. Insomma, io voglio fare il Telethon dello spazio. Io vi chiedo idee interessanti di public outreach, di marketing. Ragazzi, facciamolo questa cosa, siccome si raccolgono un sacco, siamo ridotti così, no? Veronesi ci riesce, giù il cappello, la gente butta dentro il soldino e dobbiamo farlo anche noi. Secondo me potremmo raddoppiare il budget spaziale. Sono passati 3 anni dall'ultimo avvistamento dei Decepticon. Nonostante i nostri sforzi, Megatron e la sua armata sono riusciti a sfuggirci. Gli alleati umani credono che i Decepticon abbiano lasciato la Terra. Sconfitti. Vorrei che fossi vero. E invece non è vero, perché i Decepticon sono ancora in ballo e attaccano i Transformer. Era questo l'inizio del nuovo videogame di Transformer. Transformer, il film è in tutte le sale, siamo al terzo episodio con un dispiego ancora più intenso di effetti digitali, il tema di fondo è sempre lo stesso, comunque grandi robot, grandi come palazzi, divisi in quelli buoni e quelli cattivi, e i buoni hanno la caratteristica di potersi trasformare in veicoli, veicoli di vario tipo. La Hasbro è la casa editrice di giochi americana che ha inventato questo che ormai si può considerare una saga e che nasce e vive tuttora su una produzione mondiale di enorme successo di giocattoli che sono appunto i robot che si trasformano in veicoli. E poi c'è anche la produzione di videogiochi e quella dei fumetti, un quadrato perfetto insomma. Michele Ricci, Toys Brand Manager per l'Italia della Hasbro, gli ho chiesto: i robot si trasformano solo in veicoli però? Ma noi non la consideriamo una restrizione, diciamo che la consideriamo anzi il nostro punto di forza, perché comunque diamo al bambino la possibilità di avere non solo un robot ma anche un veicolo. Il veicolo da sempre è stato il prodotto, il giocattolo che ha fatto divertire di più il bambino. Non solo, quando in passato abbiamo provato comunque a realizzare delle edizioni differenti, quindi dove il robot non veniva trasformato in veicolo ma veniva trasformato in altro, in animale piuttosto che in pistola, diciamo che sicuramente non è stato uno dei più grandi successi di Hasbro. Ecco, appunto, ci fu un tentativo tempo fa, uno dei Transformer diventava una pistola, ancora Michele Ricci. Avevamo un personaggio che appunto è tuttora il capo dei Decepticon, la fazione cattiva appunto del mondo dei Transformers, che si trasformava in pistola. È stato appunto venduto in America, da noi in Italia appunto abbiamo preferito non realizzarlo, perché comunque innanzitutto anche simbolicamente noi vogliamo comunque sempre insegnare dei valori positivi ai bambini, e quindi già mettere una pistola in mano al bambino, oppure se non sparava chiaramente, simbolicamente non ci sembrava un qualcosa di forte. Anche in America, e i media americani appunto lo hanno confermato, non è stato sicuramente un grandissimo successo. Guido Guidi è un disegnatore italiano ma che è diventato uno dei principali disegnatori di Transformer. Le sue storie sono pubblicate negli Stati Uniti, in Giappone, poi ogni tanto arrivano anche qui da noi. Gli ho chiesto se non gli piacerebbe disegnare dei robot che diventano anche altro, non solo veicoli. Questa è una bella domanda, mi sono posto tante volte. Diciamo che a volte può essere, diciamo, impegnativo quello di disegnare un veicolo, perché insomma poi subentra anche una certa capacità del disegnatore di fumetti di doversi improvvisare anche designer di veicoli che hanno una loro eleganza, tipo un'automobile sportiva. Non sono oggetti che sono poi che poi devi disegnare in tantissime situazioni. A me quello che piaceva molto è una serie, per esempio, di Transformer che di cui ero appassionato, ma parlo di ormai fine anni 90, che era una serie sempre Hasbro, si intitolava Biocombat, in cui i personaggi robotici erano robotici in modalità umanoide, ma si trasformavano in esseri organici. Avevano quindi una modalità robotica, umanoide, e diventavano animali tipo tigri, ma addirittura dinosauri. Il mio auspicio sarebbe bello rivedere tematiche, ecco, di fusione organico, tecnologico. Diciamo che sono come Transformer, cerco la versatilità è il mio motto, io cerco sempre di adeguarmi a quello che devo fare. Ecco. Non abbiamo più niente da raccontarvi, ma anche se l'avessimo, ahimè, il tempo è finito per questa settimana. Però ci sentiamo fra 7 giorni, e quindi buona settimana a tutti e a tutte. Qualcuno di voi sarà già in vacanza. Bene, riposatevi e divertitevi.